Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: qualche preoccupazione sui mercati per le ipotesi avanzate nel fine settimana dalla stampa tedesca che in realtà il buco greco sia raddoppiato a 20 miliardi, ne parleremo in apertura. Di nuovo, purtroppo, dovremo narrare la triste storia delle spese regionali. Domani avremo anche ospite Luca Ricolfi. Insomma, qui sta emergendo un tema che lascio per ora sospeso, ne parleremo domani. Cioè, le regioni dovevano essere, in un'ottica federalista, un simbolo di efficienza, proprio perché più vicino il potere è o gli eletti sono agli elettori, più sono controllabili. Qui sta emergendo un meccanismo di molte regioni, non voglio fare di tutto un erbo un fascio, ma di alcune regioni sicuramente devastante, perché ha dei costi in proporzione anche più alti di quelli già altissimi che ha la politica su base nazionale e, se permettete, ancor meno giustificati. Voglio dire, non sono giustificati i soldi e i costi che hanno le nostre due camere o il fatto che il Quirinale costi il doppio rispetto a Buckingham Palace, però a maggior ragione non è giustificato il costo della giunta regionale del Lazio, della giunta regionale della regione Sicilia o dell'aeroporto della Val d'Aosta. Per cui questo è un tema che affronteremo domani. Purtroppo oggi ci sono nuove novità che dimostrano come in questi 2-3 anni molte giunte regionali se ne siano bellamente fregate della crisi che stava mordendo sempre di più. Poi parleremo della borsa, dicevo, l'effetto Grecia: meno 0,85% a Milano, meno 0,50% a Francoforte, meno 1% a Parigi, meno 0,30% a Londra. Euro su dollaro 1,2914, tra i titoli bene Fiat più 2%, Mediobanca più 1,70%, Diassorin più 1,50%, Tods più 1,20%, Lottomatica più 1%, Enel più 0,80%, chi perde parecchio Mediaset il 4,80%, ST Microelectronics il 3,60% e UbiBanca il 2,70%, Finmeccanica perde il 2,60%, Monte dei Paschi il 2% come Telecom Italia, Mediolanum l'1,70% come Parmalat. Prismian meno 1,40% come la Popolare Emilia Romagna. Dicevamo di Fiat da un lato e di Tods dall'altro. Beh, il fatto che oggi il gruppo di Della Valle e il gruppo di Marchionne crescano in borsa è l'unica cosa che li unisce, perché sono volati stracci pesantissimi di nuovo tra Della Valle e Marchionne. Frasi che adesso ascolteremo, sarà il tema della seconda ora del programma, ma non tanto lo scontro Della Valle Marchionne, quello, diciamo, più colore, ma il punto è che cosa cambia dopo l'incontro tra Marchionne e Mario Monti il fine settimana, e anche alla luce delle dichiarazioni che ha reso oggi il numero uno della Fiat all'Unione Industriale di Torino, perché ha detto: confermiamo i programmi, l'andamento non è male, i conti vanno bene, cioè molto rasserenante. Peccato, hanno fatto notare gli industriali presenti, che non abbia fornito una data e una cifra, cioè. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che verranno confermati gli investimenti di Fabbrica Italia nei tempi previsti? Ha chiesto che vengano levate la Fiat, cioè le zavorre del sistema paese. È giustissimo, questo è un paese che ha decine di zavorre, di lacci e lacciuoli per chi fa impresa, e lo sanno soprattutto i piccoli imprenditori, Marchionne, che tutti i giorni si confrontano con burocrazia, tasse, inadempienze della pubblica amministrazione, che non possono sfruttare la cassa integrazione. Però obiettivamente non è che Marchionne lo scopre adesso che il paese Italia è un paese con le zavorre, cioè non ha prodotto fino a ieri in Svizzera e improvvisamente vorrebbe investire in Italia. Per cui le demi-vierge, come dicono in francese, le mezze vergini, non è che abbiano molta patria e diritto di cittadinanza. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Ci arriviamo alle regioni e anche all'oro, non vi preoccupate, adesso arriviamo anche all'oro, volete sapere quant'è il prezzo dell'oro. non so perché oggi, comunque $1,760 all'oncia, petrolio $91,40 al barile. Parleremo anche di Apple, qui c'è una storia bellissima. L'iPhone 5 ha venduto 5 milioni di pezzi nel weekend, e vuol dire, ecco perché si chiama 5, ma battuta terribile, lo so. Però insomma, il titolo in borsa perde, Apple sta perdendo l'1,30%, perché? Perché non basta, perché gli investitori volevano di più. 5 milioni di pezzi in un weekend sono pochi, si aspettava che fossero, non lo so, 10. Il mercato scommetteva su almeno 6 milioni di iPhone venduti e la banca da investimenti Piper Jaffray su 10 milioni di pezzi. Nel frattempo però 2000 lavoratori della fabbrica Foxconn di Taiwan, uno dei più importanti siti dove producono la maggior parte dell'elettronica che consuma al mondo, quando diciamo fabbrica della Foxconn stiamo parlando di una fabbrica che ha qualcosa come 300.000 operai in tutto, per cui più che una fabbrica è una città medio grande, hanno dato via ad alcuni disordini sfociati in uno sciopero di 24 ore e assemblano in quella fabbrica tutti i telefonini e i tablet dell'Apple. Ricorderete che un anno fa ce ne occupammo perché una catena di suicidi in quella fabbrica cinese portò anche un interessamento del governo cinese a scioperi, proteste. Parliamo dell'economia italiana. Oggi l'incontro tra il segretario dell'OCSE Angel Gurria e il premier Mario Monti, ha detto l'Italia con le riforme di Monti farà un più 4% di PIL in 10 anni, un più 0,4% in base alle sole riforme, grazie solo alle riforme di Monti. L'Italia non deve avere la tentazione di tornare indietro, chiedere aiuto se i mercati non premiano gli sforzi fatti dal governo italiano. E Mario Monti ha detto che il 2013 sarà un anno di crescita, però ha poi aggiunto è troppo presto per abbandonare il rigore. Meno 0,2 per il 2013 rispetto al 2012, questo sembra recessione, ma in corso d'anno quel meno 0,2% medio è previsto essere ottenuto con un profilo ascendente, non discendente. In questo senso diciamo che prevediamo che il 2013 sarà un anno in crescita. Credo che l'OCSE non condividerebbe mai la tesi di alcuni: c'è una fase 1 per il rigore, una fase 2 per le riforme. È troppo tardi iniziare le riforme in una fase 2, vanno iniziate in una fase 1. È troppo presto per abbandonare il rigore in una fase 2, perché va mantenuto nella fase 2, nella fase 3, nella fase N di una politica economica. Fino alla fase M, potremmo dire noi, la fase della morte. Cosa ridete, energia, la fase della morte? Rigor mortis, rigore sempre e comunque. Al di là della battuta, è chiaro che abbiamo firmato il Fiscal Compact, quindi l'accordo che ci obbliga a portare il nostro debito al 60% del PIL entro 20 anni, con un calo del 3% all'anno, perché per i prossimi 20 anni, stando agli accordi che abbiamo firmato, dovrebbe essere un imperativo categorico continuare a ridurre il debito. E l'OCSE oggi dice: attenzione, la lotta alla corruzione deve essere una priorità. Non lo dico perché non si riescono a mettere d'accordo in Parlamento sulla legge anticorruzione. Noi sappiamo che ci sono due cose che frenano gli investimenti stranieri in Italia ai minimi: la burocrazia, vabbè, il peso delle tasse sì, ma la burocrazia intesa anche come non certezza del diritto civile, e la corruzione. Allora, affrontare una riforma della giustizia civile, ci si è sempre concentrati sul penale, ma civile, e la lotta alla corruzione sarebbe una priorità per attrarre gli investimenti. E Monti su questo è stato molto tagliente, perché ha detto: l'inerzia è comprensibile ma non scusabile. Il tasso di corruzione percepita nel nostro paese appare significativamente superiore alla media OCSE. Per questo il governo farà ogni sforzo, e in questo si va in salita, non in discesa, data una certa inerzia comprensibile ma non scusabile di talune parti politiche, perché il disegno di legge sul contrasto alla corruzione sia adottato definitivamente dal Parlamento. E poi su Fiat Monti, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, ha detto non sono stati chiesti aiuti, anche altre dichiarazioni su Fiat le hanno rilasciate il ministro Corrado Passera e il ministro Fornero. Il Wall Street Journal dice che il rilancio dell'Alfa deve arrivare, viene spostato al 2014. La cosa che fa più notizia è l'ennesimo scontro tra Della Valle e la Fiat e Marchionne. Allora, oggi in un convegno alla Bocconi, Della Valle, il patron delle Todds e del gruppo appunto Todds, ha detto questi improvvisati della Fiat ci vogliono raccontare perché non fanno automobili in Italia. La banalità è tale che l'indisponenza viene perché ci si vuole prendere in giro con argomenti non convincenti. Li abbiamo presi con le mani nella marmellata. Non voglio fare grandi polemiche perché non è magari il posto adatto, ma meno a stare a sentire questi improvvisati della Fiat che vogliono venirci a raccontare perché in Italia non conviene far più le automobili, che vorrebbero venire a spiegare agli imprenditori seri che in momenti di crisi non si fanno prodotti nuovi perché il mercato non li vuole, quando noi sopravviviamo solo perché siamo in continua evoluzione con i prodotti nuovi, ma diciamo cose di una banalità tale che l'indisponenza viene dal fatto che ci si vuole prendere in giro anche con argomenti, voglio dire, neanche tanto convincenti. Il futuro degli operai della Fiat non è più corrispondente a quello che questi signori vogliono fare nel paese. Questi avevano già deciso di andarsene un pezzo, meno 2 anni fa. Oggi è successo solo che li abbiamo presi con la mano nella marmellata mentre se ne volevano andare. E meno male che non voleva far polemica Della Valle. La risposta a stretto giro è arrivata dallo stesso Marchionne, anche in questo caso molta diplomazia, molti francesismi. Ha detto Marchionne a Della Valle: smettila di rompere le scatole. La realtà è sul tavolo, è inutile che c'è, fino a quando parla gente che fa borse e che esprime opinioni sui volumi delle vetture, metto a ridere, no? Gli dica al suo amico Della Valle che lui quando investe in un anno in ricerca e sviluppo investimenti noi non ci facciamo nemmeno una parte di un parafango. Si è parlato di sgravi. E la smetta di rompere le scatole. No. Altro che liti di condominio. Mi sa che poi di mezzo, come dicono alcuni osservatori, il condominio vero è quello della Rizzoli Corriere della Sera. Perché insomma, l'obiettivo di fondo potrebbe essere anche questo, ma insomma, uno scambio simpatico di vedute di cui parleremo più avanti. Adesso invece occupiamoci. Però oggi è intervenuto anche Franco Bernabè. In maniera più allusiva che diretta, il numero uno della Telecom Italia ha detto: beh, anche noi facciamo più affari in Brasile che in Italia, però non ci lamentiamo. Noi non ci siamo lamentati dicendo che in Brasile le cose per noi vanno meglio che in Italia. Siamo preoccupati per trovare una soluzione adatta all'Italia. Insomma, il riferimento era Marchionne. Anche noi abbiamo la stessa situazione, ma non è che per questo molliamo l'Italia. Intanto, sulla riforma del lavoro, il ministro del lavoro, Elsa Fornero, ha detto che bisogna estendere la riforma anche al pubblico impiego. Peccato che oggi si sia scoperto che la riforma Fornero, quella che sta creando non pochi problemi anche a molte imprese, non si applichi alla stessa Fornero. La società del ministro del welfare, Italia Lavoro, che dipende appunto dal ministero del ministro Fornero, ha 700 dipendenti a progetto che si occupano di stabilizzazione dei lavoratori. Già questa secondo me è bellissima. Tu hai dei collaboratori a progetto che devono occuparsi di stabilizzare altri lavoratori, e loro vorrebbero forse stabilizzarsi loro per primi. Ma non è finita qui, perché una norma della riforma Fornero, che è quella che obbliga sostanzialmente in alcuni casi a assumere il lavoratore a progetto quando si scopre che in maniera esclusiva lavora per te, stabilisce però che i lavoratori a progetto con un'unica committenza devono considerarsi a tutti gli effetti dipendenti, appunto in questo caso vengono inquadrati. Cioè, se tu hai il progetto solo con un soggetto, devi essere assunto da quel soggetto. Però non si può applicare ai lavoratori di Italia Lavoro, e quindi della Fornero, per un cavillo che obbliga perché non si applica la norma a non meglio definite alte professionalità. in cui sono stati fatti ricadere 700 lavoratori che una volta si sarebbero chiamati Cocopro. Ora, tutto bene, ma che 700 lavoratori a progetto siano tutte alte professionalità e quindi non debbano essere assunti dal Ministero, vabbè, a noi ci lascia un po' perplessi, ma mai quanto perplessi ci lasciano le notizie che sto per raccontarvi. La solita dose di Malox, usate anche calmanti se volete, fate quello che volete, perché adesso torniamo a parlare dell'allegra gestione delle regioni italiane. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Partiamo dalla Sicilia oggi, mentre ci sono voci sempre più insistenti che la prossima regione potrebbe essere la Calabria. Pensate che il governatore della regione Calabria ha una dotazione personale che è quasi tre volte quella del governatore della Lombardia e ammonta a 700.000 euro di dotazione di spese personali. Ma che sei, la regina? Vabbè, allora andiamo avanti. La Sicilia, pensate che alla voce spese riservate al presidente della regione Raffaele Lombardo, Lombardo, alla faccia di tutte le dichiarazioni di questi mesi, nel 2011 le ha aumentate del 150%, cioè ha attinto per 500.000 euro 300.000 euro in più rispetto a quanto preventivato, anche se queste risorse dovrebbero andare solo a finalità istituzionali. E infatti, andando a vedere le singole voci, si scopre che due anni fa la spesa sui fondi riservati era di 240.000 euro, nel 2009 di 300.000, l'anno scorso è arrivata a 500.000. Vediamo come sono state spese. 42.000 euro per l'ufficio fondamentale della Regione Sicilia a Bruxelles. Lobby dura, senza paura. Eccola lì, 42.750 euro. L'anno scorso, l'anno prima ne costò 37.000. Tutto in aumento. Poi, spese per convegni e ricerche, 51.000. Nuove, voci nuove. Consulenti, 234.000. 50.000 euro in più delle previsioni. E ancora, libri e pubblicazioni riguardanti la Regione Sicilia. Hanno speso 200.000 euro in più rispetto ai 500.000 stanziati, ok? Quindi siamo arrivati a 700.000. 90.000 euro in più hanno speso anche per le utenze, 12.000 euro in più rispetto a quelli stanziati hanno speso per le spese postali, invece che 16.000, 28.000 euro di costi di spese postali. Hanno speso 15.000 euro in più in Regione Sicilia per studi, indagini, incarichi speciali di quanto previsto, cioè invece che 60.000, 74.000 euro. Hanno anche speso di più per l'emissione della scorta del presidente, 360.000 a fronte dei 300.000 stanziati. Infine, alla voce noleggio e leasing di auto, qui si vede proprio la forza dei tagli di cui ci hanno parlato i politici in questi anni. Invece che 110.000 euro previsti, l'anno scorso la Regione Sicilia ne ha spesi 206.000 euro. Un applauso per la durezza di questa spending review alla siciliana. Ed eccoci invece alla Regione Lazio. Ormai il tango della maiella ci accompagna. Da dove parto? Vabbè. Allora, volete sapere quanto hanno speso gli eletti della lista Polverini, nella lista Renata Polverini, in cene, aperitivi, soggiorni, alberghi, hotel e spritz in un anno? 195.000 euro. Ecco perché i ristoranti sono sempre pieni. Hai capito? Aveva ragione Berlusconi su questo. Allora, il gruppo che fa capo alla governatrice ha messo ieri online la sua lista spese 2011. 9.000 euro di fax, telefonate, spedizioni, 1.100 euro di cancelleria, quanto scrivono. ma soprattutto 110.000 euro di riunioni, convegni e incontri e poi 886.000 euro per la diffusione dell'attività del gruppo. In tutto i soldi dei contribuenti e dei laziali, perché spesso magari sono raccolti anche con le addizionali, per finanziare l'autopromozione della lista Polverini è 1.300.000 euro. Ma porca miseria, ma se si raccolgono i soldi per i bambini che muoiono di fame con le donazioni, non possono raccogliere anche loro i soldi per autopromuovere la loro lista Polverini con soldi loro e non con soldi nostri e nostri girarli alle donazioni vere? Ma perché bisogna pagare l'autopromozione della lista Polverini? Boh. Ma vediamo i convegni, perché sui convegni, preparatevi, parte subito un applauso qui. Allora, questa è fantastica. Io non so più cosa fare, rido. 7.500 euro spesi dalla, appunto, lista Polverini all'interno di questi, di questo 1.300.000 euro di autopromozione per fornitura di materiale per il convegno Damos e da fa. No, si chiama proprio così, il convegno era Damos e da fa. E poi 1.800 euro per l'affitto di una sala per l'incontro cittadini italiani, cittadini dell'Ecuador, culture a confronto. Sarà emersa una cosa incredibile lì dentro, direttamente a Stoccolma per il Nobel. E poi 3.000 euro in quattro erogazioni per le consulenze sul sito web gruppopolverini.it. E poi vari beneficiari, l'associazione Lazio Liberale, quella del consigliere Beraudo, quello che delle ostriche al ristorante, no? Associazioni locali, manifesti, consulenze, ma la cosa più bella è questa. E adesso io qua. Hanno speso, e qui veramente parte un altro applauso, hanno speso 3.500 euro per un convegno sul bilancio della Regione Lazio. 3.500 euro per un convegno sul bilancio della Regione Lazio. E però adesso divento un po' più serio e un po' più cattivo, perché questo già è scandaloso, ed è scandaloso perché non esiste che noi diamo 1.300.000 euro a nessun gruppo regionale per l'autopromozione per convegni come Damos e da fa, oppure il convegno sul bilancio tuo, no? Però la cosa che mi fa più arrabbiare in assoluto è che proprio in quegli anni, 2010-2011, noi, lo ripeto ogni volta, ci occupammo della vicenda dell'ospedale Santa Lucia di Roma, dove non pagavano da gennaio gli stipendi a infermieri e operatori sanitari. È un ospedale che cura soprattutto bambini che hanno problemi psicomotori, ma non solo bambini. Allora, mentre tutte le delibere portavano un aumento dei soldi per la giunta regionale, mentre si stabiliva, cosa che prima non c'era, che avessero diritto al vitalizio anche gli assessori esterni, quelli non eletti, cioè tutti e 14, con un costo di 1 milione di euro all'anno per i prossimi 30 anni, che se non cambia la legge pagheremo per i prossimi 30 anni, perché questi dopo 5 anni beccano 3.000 euro al mese di vitalizio. Mentre si faceva questo, la Regione Lazio portava i contributi ai gruppi politici da 1 milione a 5 milioni e mezzo, 4 milioni e mezzo in più, ma tagliava 2.800 posti letto nella gestione sanitaria del Lazio. E il 10 febbraio la delibera confermava la previsione di spesa per i gruppi politici, cioè costeranno 5 milioni e mezzo. E nel frattempo tagliava sempre nella stessa giunta, nella stessa delibera, di 142 milioni tra ATAC e Cotral, aumentava i biglietti dei treni regionali, aumentava l'addizionale IRPEF fino all'1,75% e tagliava appunto 2.800 posti letto. Questo si merita solo un passaggio di un film bellissimo, Sidney Lumet, se non ricordo male. Il film si chiamava Quinto Potere. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Non capisco questo accanimento contro la Regione Lazio quando Puglia, Lombardia, Sicilia, Calabria sono peggio e nessuno dice niente, o così i vari consigli delle municipalizzate. Allora, l'accanimento è un'altra cosa nella vita, però nessuno sta dicendo, alcuni hanno scritto perché non parla di Penati, cioè l'accusa è che si parla del Lazio per danneggiare il PDL. Allora attenzione, intanto l'inchiesta è aperta alla magistratura. Ma nel caso specifico qui sta emergendo di tutto, ma non è tutto illegale. Cioè Penati è accusato di aver beccato tangenti per vari motivi, sesto e quant'altro, se la vedrà con la magistratura e auguri in bocca al lupo. Non me ne frega nulla che Penati sia del PD, non ho nessun interesse né per il PD né per il PDL. Quello che sta emergendo con forza non è il reato in sé, ma è la disponibilità illimitata di auto remunerarsi, cioè la delibera di dicembre 2010 che dice le spese per i consigli regionali non sono più di 1 milione di euro, sono di 5 milioni e 4. Chi controlla? Nessuno. Chi paga? Noi. Chi ne ha un beneficio? Loro. E arrivederci madama la Marchesa. Cioè questo che sta, non c'è un reato, sono tutte delibere di giunta. Nessuno sta dicendo che non abbiano speso effettivamente 7500 euro per il convegno, nome cavolo è Damo se da fa ha scritto un ascoltatore, il sottotitolo era che avevo una magna. Ma voglio dire, cioè, nessuno sta dicendo che è la cosa allucinante è che è tutto regolare. Magari ci fosse, come nel caso di Penati, un'inchiesta della magistratura e basta. Per cui attenzione a dire povero accanimento contro la Regione Lazio. Comunque, dal Lazio alla Grecia il passo è breve. Vittorio Darold, buonasera, sei in collegamento con noi? Buonasera a voi, buonasera a voi. Mai così facile e meno pindarico fu un collegamento tra gli sprechi della Regione Lazio e una gestione della Grecia che sappiamo cos'è. Senti, ma, come tu sai, noi abbiamo sempre detto sì, si legge Grecia, ma si scrive Grecia, ma si legge Italia, no? Vabbè, non esageriamo, però insomma, il rischio... Molti di questi sprechi sono iniziati a me molto tempo fa proprio in Grecia, no? Ai tempi delle loro Olimpiadi cominciò questo momento incredibile dove la Grecia... Dove iniziarono a taroccare i conti. No, ma rapidamente, i mercati si sono spaventati oggi per alcune indiscrezioni dei giornali tedeschi. Se non ricordo male era lo Spiegel, però adesso vado... Sì, esattamente, The Spiegel ha riportato che il governo greco richiederebbe un altro piano di aiuti, quindi sarebbe il terzo dopo quello da 110 e quello da 130, di 20 miliardi. Insomma, i conti ancora non tornano perché naturalmente la riduzione, c'è una recessione al 7%, quest'anno quindi si prevede un calo del PIL di meno 7%. E le entrate sono appunto in calo, mancano 2 miliardi nei primi 7 mesi. Allora questa presunta, come dire, scoop di Der Spiegel l'aveva già anticipato una persona assolutamente credibile, che è Charles Dallara, che è il presidente dell'Institute of International Finance, cioè l'associazione delle più grandi banche del mondo, che appunto a venerdì aveva detto spostare la Grecia non ce la fa, bisognerà dargli 2 anni in più, che vuol dire dai 15 ai 20 miliardi di aiuti. E quindi insomma questa è la situazione. Come fare? Si è già cercato di trovare delle soluzioni, ad esempio il premier Samaras è andato a trovare Draghi per dirgli se rinnoverà i bond in scadenza, la BCE ha in mano dei bond greci, oppure se bisognerà semplicemente accelerare sulle privatizzazioni, che fino ad oggi dovevano fruttare 50 miliardi, ne sono fruttati circa 1,6, oppure dare nuovo slancio appunto ai tagli, nuovi tagli a pensioni e salari, ma mercoledì ci sarà un altro sciopero generale, naturalmente questo comporta dei grossi problemi, oppure ultima possibilità, allungare i termini per restituire i crediti da Fondo Monetario e paesi partner europei, che però vuol dire minore entrate per queste persone, per questi stati, per queste istituzioni internazionali, e quindi un nuovo, praticamente sì, un nuovo aiuto. Tra l'altro l'Unione Europea, la Commissione Europea ha detto ormai non ci sorprendiamo più sulle speculazioni sulla Grecia, il Ministero delle Finanze ha smentito Der Spiegel, ha detto il deficit resta 11,5 miliardi, non è vero che è a 20, però come tu dicevi insomma da più parti questa ipotesi viene considerata realistica. Oggi tra l'altro la banca centrale tedesca, la Bundesbank, ha criticato il Fondo Monetario Internazionale, sta assumendo troppi rischi, ha detto. Però insomma la situazione si complica anche perché non è la prima volta che viene ipotizzato nell'ultimo mese che la Grecia non ce la farà e raddoppierà il deficit e avrà bisogno di 2 anni in più. Grazie Vittorio Darold. Questo è stato il motivo per cui le borse oggi sono partite deboli, hanno chiuso deboli, meno 0,80% Milano. con un calo più significativo a Milano e a Parigi, meno 0,95, rispetto a Francoforte, meno 0,50, Londra, meno 0,20, l'America, meno 0,20 in questo momento, euro a quota 1,29,12, particolarmente debole oggi però Mediaset, meno 4,60%, come sempre con Radio Colli sulle 24 ore, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Mediaset. Sì, allora Mediaset ha risentito di alcuni giudizi negativi da parte degli operatori del settore, che si aspettano una raccolta pubblicitaria per quest'anno in calo del 13,4%, di conseguenza un utile netto in flessione dell'83% e un dividendo pari a zero, considerato anche un debito elevato che potrebbe ammontare a 1,8 miliardi di euro alla fine dell'anno. Eh sì, il forte calo della raccolta pubblicitaria incide di nuovo. ST Microelectronics meno 3,60%, ed Eni anche pesante, meno 3%, sotto i 18 euro per azione. Sì, allora ricordiamo che oggi Eni tratta ex dividendo, infatti staccava un anticipo sul dividendo pari a 0,54 euro per azione, quindi il titolo è risentito anche di questo insieme al calo del petrolio. Per quanto riguarda ST, ST ha risentito del calo del comparto tecnologico, soprattutto a Wall Street, dove Apple perde oltre l'1% a causa delle vendite dell'iPhone 5 che sono risultate sotto le attese. Sono in calo anche Intel, Facebook e tutti i titoli del settore tecnologico, per questo anche in Europa ST ne risente, non solo a Milano ma anche a Parigi, dove ha registrato un calo significativo. Ancora Telecom e Telecom Italia Media ha due andamenti diversi. Telecom ha perso il 2%, mentre T-Media oggi invece saliva. Scade oggi la data per presentare domande sulla 7, giusto? Sì, oggi è scaduto il termine per la presentazione delle offerte non vincolanti. Sì, delle offerte, una domanda. Le indiscrezioni uscite in questi giorni, i gruppi che potrebbero avere presentato l'offerta sono Cairo 3 Italia, Discovery Channel ed RTL. Ricordiamo appunto che si tratta di offerte non vincolanti che saranno poi esaminate nel corso del Consiglio di Amministrazione di Telecom in calendario per giovedì 27 settembre, quindi comunque ancora la partita è tutta da giocare. E poi Finmeccanica, le banche oggi deboli per spread e tensioni sulla Grecia, UbiBanca meno 2,70, Popolare Emilia Romagna meno 1,40, devo dire le altre hanno perso pochino, meno 0,20 la Pop Milano, meno 0,16 il Banco Popolare, e poi Unicredito meno 0,80, Intesa San Paolo non riesco a beccarla ma adesso la troverò, eccola qui. Scusate, meno 0,60%. Dicevamo Finmeccanica dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per corruzione internazionale. Sì, infatti, secondo gli operatori il titolo ha risentito proprio di questa notizia, ma è arrivata venerdì a mercati chiusi. La società è iscritta nel registro degli indagati alla procura di Busto Arsizio per ipotesi di corruzione internazionale. La società ha detto di essere estranea alle ipotesi di reato. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, sarebbe stata la controllata Augusta Vestrand ad aver venduto al governo indiano 12 elicotteri per 150 milioni di euro proprio per addomesticare rappresentanti del governo indiano, quindi questa me l'accusa, e di questo proprio oggi il titolo mi ha risentito in borsa perdendo il 2,45%. Ancora dopo il traffico, le informazioni sul traffico, vorrei parlare di Fiat, ma sarà il tema della seconda ora, e soprattutto di Ansaldo e di Asorin. 349-238-6666 per i vostri sms. Scrive un ascoltatore ancora sul tema delle spese della Regione Sicilia e Regione Lazio. Basta attaccare la funzione pubblica, ma nessuno la sta attaccando. Noi stiamo attaccando spese ingiustificate della classe politica regionale, ma chi attacca la funzione pubblica? Abbiamo detto che andavano dati i soldi agli ospedali e non ai gruppi consiliari. Qualcun altro dice prima della Polverini invece andava tutto meglio, ma figuratevi, cioè, è vero che le spese sono aumentate moltissimo, ma è anche vero che il tema dei costi della politica è un tema che esiste da prima della Polverini, diciamo che non ha fatto nulla, anzi l'ha aggravato, ma nessuno dice che è tutto colpa sua. Di nuovo in diretta, allora Livia Zancaner, dicevamo di altri titoli, mi riferisco intanto ad Ansaldo. Sì, allora Ansaldo ancora oggi ha chiuso in territorio positivo, ha guadagnato lo 0,70%, tornano sempre le indiscrezioni sulla vendita che durano ormai da settimane. In particolare oggi, secondo quanto da riportato dal Messaggero, sarebbe stato scelto l'advisor, cioè la banca d'affari, a cui appunto affidare l'operazione di vendita. I potenziali acquirenti sarebbero Siemens, General Electric e altri operatori del settore, quindi comunque sono sempre le indiscrezioni su una possibile vendita ad alimentare gli acquisti sul titolo. Sì. Ancora Enel, volete sapere, più 1%, Diasorin più 1,40%, Mediobanca più 1,66%, Fiat più 2,5% e Tod's più 1,35%. Diciamo con una battuta che la crescita in borsa oggi è l'unica cosa che unisce Della Valle, Tod's con Marchionne, perché avete sentito che stracci sono volati oggi di nuovo, e ne parleremo nella seconda ora del programma. Grazie Livia Zancanera. Adesso però parliamo di un caso che riguarda un titolo in America, l'Apple, che cala in borsa nonostante abbia venduto 5 milioni di iPhone 5 nel weekend, che sono una cifra immensa. Gli analisti dicono troppo pochi, ancora di più, dovevano essere almeno 6 milioni. Ancora di più, ancora, perché non bastano i 2 milioni venduti al debutto e i 5 milioni venduti nel weekend. Gli analisti si aspettavano addirittura 10 milioni in un fine settimana. Ma che avrà, a parte che la Apple sta diventando la prima società negli Stati Uniti, la soglia potrebbe essere già raggiunta il prossimo 9 aprile, cioè varrà in borsa 1.000 miliardi di dollari. Però dico, insomma, ma che cosa ha questo iPhone 5? Ho capito che è più leggero dell'iPhone precedente. Per generare attese che appunto sono così alte che poi il titolo perde se non vendi 6 milioni ma ne vendi 5. Giro la domanda al nostro esperto di tecnologia, Enrico Pagliarini. Buonasera Enrico. Buonasera a tutti. Conduce 2024 ogni sabato, per chi se lo fosse perso. Enrico, scusa l'ignoranza, ma siccome in Italia non è ancora arrivato, che caratteristiche ha, che ti fa anche il massaggio l'iPhone 5, perché deve venderne così tanti, e soprattutto se qualche critica e qualche osservazione te la posso fare dopo. Intanto raccontaci perché le case d'affari si attendono 10 milioni di pezzi in un fine settimana. Potremmo dire, gli analisti non sono mai contenti, tutti si aspettavano molto di più dalla Apple, che ha deluso non solo gli analisti ma anche molti appassionati di tecnologia, perché quando è stato presentato iPhone 5 molti si aspettavano cose innovative, diverse da quello che vediamo oggi sul mercato. In realtà di nuovo c'è ben poco su iPhone 5, è uno schermo più ampio, è più sottile, più leggero, è stato migliorato il processore, è migliorata la fotocamera, è pronto per il 4G, ma nulla di quello che avevamo visto nelle altre presentazioni di iPhone. Certo è che c'è ancora un grandissimo entusiasmo e quindi molti consumatori vogliono questo nuovo prodotto. Giusto per avere un'idea, è vero che gli analisti non sono contenti, però il grande concorrente di Apple e di iPhone, cioè il Galaxy 3S3 della Samsung, per vendere 10 milioni di pezzi ci ha messo circa 2 mesi, quindi 5 milioni in un weekend non è un brutto risultato. Allora, quanto ho? Un minuto prima del GR, se mi fate sapere, un minuto, 1,5. Allora, Enrico, una cosa, va benissimo, ha caratteristiche nuove. C'è chi dice, attenzione, è veramente il nuovo corso di Apple dopo Steve Jobs o è l'ultimo colpo di coda di Steve Jobs e l'Apple non ha più niente in magazzino da brevettare? Sì, da giorni ci si fa questa domanda, se l'Apple non abbia raggiunto il picco e quindi da qui si vede solo una discesa, e se i nuovi amministratori di Apple non stiano allungando la vita di prodotti su cui, come dicevo, c'è ancora tantissimo entusiasmo, ci sono ancora molti consumatori nel mondo che vogliono l'iPhone come loro primo smartphone, ma che sia arrivato il momento del declino. Attenzione, Apple rimarrà un'azienda che vende milioni di pezzi ancora per tanti mesi, ma la borsa, come sappiamo, cerca di guardare un po' in avanti? Questa è la domanda che si fanno tutti, anche perché si è assottigliato quel vantaggio che aveva nei confronti di Android in primis e di Windows Phone. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla Fiat, alle dichiarazioni di Marchionne di oggi, di nuovo lo scontro con Della Valle, vorrei concludere l'approfondimento sull'iPhone 5. 5 milioni di pezzi venduti nel fine settimana, troppo pochi per gli analisti, il titolo ha perso in borsa, si aspettavano almeno 6 milioni, c'è chi diceva 10 milioni di pezzi venduti. Con noi il nostro Enrico Pagliarini. Faccio una correzione, chiaramente la soglia dei 1.000 miliardi di dollari, secondo alcuni analisti, Apple come fatturato potrebbe raggiungerlo nel 2015, ma altri ritengono addirittura il 16 agosto del 2013. Enrico, stavamo ragionando sul dopo iPhone, cioè tu dicevi, c'è chi dice non è che stiano raschiando un po' il barile e manchino altre idee. A questo proposito, la vicenda delle mappe, tutte sfalsate dell'iPhone, la stazione di Paddington di Londra cancellata, la Statua della Libertà e il ponte di Brooklyn che svaniscono, anche da noi vari, la Costa Brava non è in Spagna ma diventa in Africa, Barcellona, la Sagrada Famiglia va a finire ad Ibiza, in maniera un po' dissacrante anche considerato Ibiza rispetto a Barcellona. Ecco, da cosa nascono? Dunque, le mappe sono un servizio ormai strategico sugli smartphone, tant'è che Google da circa 10 anni sta realizzando le famose Google Maps, le ha introdotte su Android e fino a pochi giorni fa, potremmo dire, sugli iPhone, sugli iPad, insomma sui prodotti Apple c'erano le mappe di Google. Allora, il problema è che Google, come dicevo prima, è dietro ad Android, che è il sistema operativo concorrente ad Apple, che sta sui Samsung e su altri telefoni, e quindi Apple ha deciso di abbandonare queste mappe e con l'aggiornamento al sistema operativo numero 6, che è partito il 19 di questo mese, ha introdotto delle mappe proprietarie. Quindi Apple si è messa a costruire mappe. Il problema è che costruire mappe non è una cosa semplice e quindi ci ha fatto una brutta figura. Allora, alcuni si domandano, ma se ci fosse stato Steve Jobs, sarebbe successo? Probabilmente no, perché lui, sappiamo, era un maniaco della perfezione, quindi avrebbe introdotto le mappe solamente nel momento in cui queste mappe fossero state perfette. Allora, da questo molti si chiedono se, come dicevamo pochi minuti fa, non stiamo assistendo a l'inizio di un declino naturalmente lento di Apple. Poi non è la prima volta che Apple fa una brutta figura, perché c'è stata la famosa antenna gate, quindi antenne che non funzionavano molto bene, la ricezione che non funzionava molto bene, il famoso Siri, l'assistente vocale che capiva una cosa per un'altra, insomma. Vabbè, non è la prima l'unico, volta che dai, insomma. Va bene, no, è importante invece, al di là della battuta, capire che insomma qui c'è una grossissima attesa anche di borsa sull'iPhone 5, ma tu hai fatto bene a mettere in evidenza che la domanda vera è poi la Apple saprà sfornare prodotti rivoluzionari come faceva ai tempi di Steve Jobs. Dal tema Apple e quindi il futuro a un tema che ci riporta al presente, se non in alcuni casi anche al passato, ossia oggi a Milano nel corso di un convegno alla Bocconi su Fiat sono intervenuti sia il ministro Passera che in maniera molto polemica anche di nuovo Diego Della Valle, mentre Sergio Marchionne ha parlato di Fiat a Torino e anche Mario Monti ha negato che vi potessero essere degli aiuti che siano stati chiesti nell'incontro con Marchionne, aiuti di Stato, sostanzialmente aiuti allo Stato. E allora parliamo di Fiat intanto per quello che ha detto Marchionne, ma anche per il nuovo volar di stracci tra Marchionne e Della Valle. Il ministro Corrado Passera, non siamo d'accordo sulla riduzione degli investimenti, le preoccupazioni le abbiamo espresse anche in precedenza, sentiamolo oggi a margine del convegno alla Bocconi, intervistato dalla nostra Maria Luisa Pezzali. Le preoccupazioni che avevamo espresso anche prima, che abbiamo discusso insieme al vertice della Fiat, alcune peraltro è stato possibile ridurle, perché i risultati raggiunti da Fiat su molti mercati sono di grande interesse. È chiaro che l'andamento in Europa, l'attività in Italia rimane una fonte di preoccupazione molto seria. Adesso abbiamo individuato una possibile area di collaborazione dove forse aumentando e rendendo più facile l'attività di montaggio, di attività in Italia di esportazione, forse si potrà saturare di più attività italiane, ma siamo solo all'inizio di questo studio, che peraltro dovrà durare poco, e quindi ne parleremo fra un po'. Il rinvio di molti modelli e del cambio di alcuni altri è stato messo da noi sul tavolo come un elemento di preoccupazione e di non soddisfazione. L'azienda dice nuovi modelli e nuovi investimenti si fanno in funzione di quando ci si aspetta la ripresa del mercato. È chiaro che qui si possono avere idee diverse su quanto poi il mercato può essere modificato dall'offerta e quanto invece debba essere tenuto in conto, come dice la Fiat, ma questo è una delle preoccupazioni maggiori, quello del lancio rimandato di vari modelli. E poi Sergio Marchionne, mentre il Wall Street Journal dice che forse il rilancio dell'Alfa negli Stati Uniti verrà fatto spostare al 2014, il ministro Fornero dice bisogna lavorare perché non si perdano posti di lavoro. Guardi, su questo, ministro, siamo tutti d'accordo. Sergio Marchionne oggi, nel corso a margine della Unione Industriale di Torino, ha detto il governo deve rimuovere le zavorre del paese, ma l'azienda è sana, confermiamo tutti gli obiettivi per il 2012 e confermiamo l'impegno verso questo paese. Il governo deve fare la sua parte per rimuovere quelle zavorre che stanno ancora ancorando il nostro paese, il paese al passato. Dobbiamo ricordarci che abbiamo davanti un'Italia che è ancora tutta da ricostruire. Non ci sono ricette segrete se vogliamo lasciare ai nostri figli un futuro che sia all'altezza delle nostre aspettative di crescita industriale, sociale e civile. La verità è che noi non siamo malati. La Fiat nel suo insieme è sana ed è in ottima forma. Concludo confermando l'impegno della Fiat verso questo paese. Come la più grande impresa privata italiana faremo tutto il possibile per contribuire alla risoluzione dei temi in agenda. Ma non capisco più, c'è un problema o non c'è un problema di investimenti? Perché se Marchionne dice confermo il target, gli obiettivi del 2012, l'impegno verso questo paese, allora mi rivolgo a chi studia la Fiat da anni e ha scritto anche libri importanti su questo, ha scritto nel 2011 Fiat Chrysler e il declino dell'Italia industriale, casa editrice Il Mulino, professor Giuseppe Berta, storico dell'economia all'Università Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Editorialista anche del Sole 24 Ore. Lei ha capito, quindi il problema non c'era? E allora, se ho capito bene, io stamattina ero all'Unione Industriale e se ho capito bene il problema a cui allude Marchionne non è dei conti della Fiat. I conti della Fiat, ha detto, vanno bene, vanno meglio addirittura di altre case produttrici europee e non europee. Ciò che va male però è il mercato europeo e naturalmente in modo particolare il mercato italiano. Dunque è un problema dell'Italia, non è un problema della Fiat. Allora, professor Berta, c'è un po' di naïveté, di sorpresa ingiustificata in queste parole di Marchionne, che dovrebbe sapere bene com'è fatta l'Italia? Ce n'è in due passaggi. Uno è certamente quello che ha notato lei, un'impresa che appunto si identifica di fatto con la storia economica e industriale del nostro paese da più di un secolo, non può non conoscere e non aver partecipato in un certo senso delle contraddizioni della società italiana. Ma c'è un altro passaggio che a me è sembrato meno convincente, è il passaggio in cui dice l'abbandono di Fabbrica Italia è dovuto al cambio radicale della cornice economica. Abbiamo scoperto all'improvviso che l'Italia era un paese gravato dal debito pubblico, che aveva il terzo debito pubblico del mondo. Ora, direi che questo è difficile giustificare un cambio di strategia con una connotazione del genere, che da sempre tutti sanno che il debito pubblico italiano è tra i più elevati al mondo. Cioè la crisi finanziaria di questi anni viene da lontano per il nostro paese, e anzi si potrebbe dire che è un intreccio particolare con lo sviluppo anche delle attività economiche. Dunque ci sono due punti di vista, secondo me, nel lungo intervento di Marchionne, che non si conciliano bene, perché da una parte c'è la rivendicazione del ruolo della Fiat dentro l'Italia, ma dall'altra parte si parla dei problemi italiani come se la Fiat fosse una realtà ormai esterna, cioè se ne parla dalla sponda, dalla piattaforma di Fiat Chrysler, che è diventata un'altra cosa rispetto alla Fiat che abbiamo conosciuto. Ecco, si cambia un po' il punto di vista. Da una parte si dice no, siamo una forza italiana e ci sentiamo tali, dall'altra parte si valuta l'Italia esattamente come può fare una grande multinazionale che opera sulla scacchiera mondiale e che si trova a dover decidere se investire qui o da un'altra parte. E adesso vediamo a un altro aspetto di questa vicenda. Tra l'altro a me è un po' sorpreso, professor Berta, che Marchionne nel dire queste cose, dire tutto va bene, confermiamo l'impegno verso il paese, l'azienda sana e conferma gli obiettivi per il 2012, non abbia fornito però né cifre né numeri. Non è un po' strano, no? Preso anche un fatto che Marchionne non ha detto, per esempio, che tra pochi mesi dovrebbe inaugurarsi un nuovo stabilimento del gruppo Fiat, vale a dire lo stabilimento ex Bertone nell'area di Gugliasco, nella cintura metropolitana di Torino, dove verranno appunto allocate le nuove produzioni della Chrysler, un investimento importante, tra l'altro una fabbrica da cui usciranno vetture della fascia più alta, perciò anche con attese di successo internazionale, un'attività che si distacca dunque dalle solite attività automobilistiche del gruppo Fiat. Mi ha sorpreso che non sia stato fatto cenno, perché in fondo, ecco lì, si poteva rintracciare anche un'identità, una vocazione produttiva italiana verso l'auto molto sofisticata, le fasce di lusso e così via, e invece questo investimento, che forse, a quello che so io, è l'investimento più rilevante che è stato compiuto nell'industria italiana nel corso del 2012, non è stato neanche citato, un po' sorprendentemente a mio avviso. E adesso, sì, mi sono d'accordo con lei, guardate che nessuno ce l'ha con la Fiat e con Marchionne. Abbiamo elogiato Marchionne negli anni passati per alcune cose che ci sembravano meritevoli, anche il tema delle relazioni sindacali da porre in questo paese. Adesso ci sembra che si stia creando un po' di amuina, no? Come dicono a Napoli, chi sta a poppa va a prora, chi sta a prora va a poppa, non si capisce bene cosa voglia fare. Inferior stabat lupus, scrive un ascoltatore ricordando la favola, se non ricordo male, di Esopo, del lupo e l'agnello, cioè la scusa per il casus belli per poi andarsene dall'Italia. Non so se sia questo, fatto sta che oggi a chi è un po' critico con Marchionne si aggiunge anche Franco Bernabè, amministratore delegato di Telecom Italia, che ha detto: pure per noi le cose vanno meglio in Brasile che in Italia, ma non per questo ci siamo lamentati, noi ci siamo preoccupati di trovare una soluzione adatta per l'Italia. Un po' chiagnone, come dicono sempre a Napoli, Marchionne piange un po' tanto sulla situazione di un paese che dovrebbe conoscere molto bene, e se non lo conosce questo è colpa sua. Ma veniamo allo scontro con Della Valle. Io ve lo propongo in rapida sequenza. Prima Della Valle, questa mattina al convegno della Bocconi, a me fa impazzire una cosa che inizia dicendo: non voglio essere polemico, E poi la risposta, pure quella, no? Poco polemica e molto diplomatica, di Sergio Marchionne. Non voglio fare grandi polemiche perché non è magari il posto adatto, ma meno a stare a sentire questi improvvisati della Fiat che vogliono venirci a raccontare perché in Italia non conviene far più le automobili, che vorrebbero venire a spiegare agli imprenditori seri che in momenti di crisi non si fanno prodotti nuovi perché il mercato non li vuole, quando noi sopravviviamo solo perché siamo in continua evoluzione con i prodotti nuovi, ma diciamo cose di una banalità tale che l'indisponenza viene dal fatto che ci si vuole prendere in giro anche con argomenti, voglio dire, neanche tanto convincenti. Il futuro degli operai della Fiat non è più corrispondente a quello che questi signori vogliono fare nel paese. Questi avevano già deciso di andarsene un pezzo, meno 2 anni fa. Oggi è successo solo che li abbiamo presi con la mano nella marmellata mentre se ne volevano andare. La realtà è sul tavolo, è inutile che c'è, perché fino a quando parla gente che fa borse e che esprime opinioni sui volumi delle vetture, metto a ridere, no? Gli dica al suo amico della Valle che lui quando investe in un anno in ricerca e sviluppo e investimenti noi non ci facciamo nemmeno una parte di un parafango. Si è parlato di sgravi. E la smetta di rompere le scatole, tra parentesi. Professor Berta, non è un po' un rischio personalizzare lo scontro? Cioè, ognuno lo può pensare come vuole, chiaramente noi lo diciamo, ma non vorrei che poi si creasse del fumo nello scontro della Valle Marchionne, magari con obiettivo finale il Corriere della Sera, e invece qui il problema mi sembra di scelte industriali e di politica industriale. Esattamente, io guardi, sono francamente un po' colpito e temo anch'io che si prenda una deriva da talk show politico. Per anni e anni noi lamentiamo con scarsi risultati che la politica è fatta di queste contrapposizioni, di queste battute sempre più pesanti, e poi adesso rivederle in casa degli industriali, insomma, non fa piacere e si vorrebbe arrestare subito questo dibattito. Qua ci sono degli aspetti molto importanti. Allora, la Fiat e il ruolo della Fiat in Italia è uno dei nodi della politica industriale. Noi dobbiamo capire se la Fiat è una chance importante per la crescita di questo paese, cioè torna ad essere una forza motrice importante dello sviluppo italiano, oppure sviluppiamo, diciamo così, una strategia di resistenza e di attrito, sapendo che il radicamento dell'attività automobilistica è destinata a ridursi nel tempo, e si tratta di gestire il declino. Sto volutamente estremizzando la situazione, ma mi sembra che il nostro paese abbia bisogno più che mai oggi di un confronto serio sugli orientamenti economici del futuro. Quali sono le architravi che devono reggere il nostro futuro industriale? Mi sembra che da questi confronti non venga fuori. No. Sono d'accordo con lei, professore, nel senso che poi la polemica la possono fare anche via lettera, via sms, però qui il tema è troppo delicato per essere lasciato solo la polemica, diciamo, tra due personalità molto forti come Della Valle e Marchionne. Grazie al professor Giuseppe Berta. E nel salutarvi, molti mi chiedono ancora dei temi di apertura. Guardate, non posso tornare sul tema dei fondi della Regione Sicilia, in cui il governatore Lombardo ha aumentato la sua dotazione personale del 150% nel 2011, sforando tutte le spese previste, tra cui per esempio le spese postali passate da 16.000 a 28.000 euro, gli studi, le indagini, gli incarichi speciali passati da 60 a 75 mila euro e le auto passate da previsti 110 mila euro a 206 mila euro di auto e leasing di auto blu nel 2011. Ne posso tornare sul fatto che Renata Polverini, per il suo gruppo, quindi la lista, Renata Polverini avesse speso 1.300.000 euro in autopromozione, dei soldi dei cittadini per l'autopromozione, con 8.000 euro al convegno Damos e Dafa e 1.750 euro per il convegno dei rapporti tra gli italiani e i cittadini dell'Ecuador nel convegno sul bilancio del Lazio. Vorrei solo salutarvi, se ce la faccio, sì, con l'invito preso da Quinto Potere